Nick. Pizzo. Vado. Dunque, benvenuti e buon ascolto a chi ci sta ascoltando sulle frequenze liberate 1359 AM di Radio Wombat o sul sito wombat.noblogs.org. Approfitto per ricordare che tutto il festival di letteratura sta andando in diretta su questa radio. Sarà possibile anche poi ritrovare tutti i tavoli, tutte le presentazioni, gli spettacoli che si sono svolti in questi 4 giorni archiviati sul sito. Come quest'anno, era possibile anche l'anno scorso ascoltare ciò che era stato detto al Festival della Letteratura. E in particolare l'anno scorso, sempre nell'ultimo giorno dei 4, si è svolto un tavolo sulla poesia, che è uno dei filoni che abbiamo seguito con più attenzione già dalla prima edizione. L'anno scorso il tavolo, dicevo che si può riascoltare appunto per invitare chi avesse voglia ad andare a capire da dove stiamo partendo con questa e la prossima discussione, si intitolava Le forme della poesia contemporanea e sostanzialmente si è parlato di quali erano i modi, le forme, le pratiche in cui si dava oggi la poesia. Pareva che con maggiore forza emergessero due tendenze. Una era quella della poesia fonica, orale, la poesia performata, il poetry slam di cui ci accingiamo a parlare. L'altra, che sarà l'oggetto del tavolo che seguirà, è invece la poesia in strada, la poesia di strada, la poesia murale, la poesia nelle piazze e nelle vie. Poi c'era la terza invitata, che non è invitata a questo Festival della Letteratura, ma lo dico ad alta voce proprio perché è qualcosa che ci siamo promessi di fare. L'anno prossimo vorremmo affrontare la questione critica, però come si pone la critica di fronte a tutto questo, quale ruolo svolge e così via. Tuttavia non ci dispiace se già ora comunque qualche accenno si vuole dare anche su questo aspetto. Più di tutto però ci piaceva parlare, cogliendo l'occasione della presentazione di Santa Bronx, della poesia orale. E siamo innanzitutto con Nicolas Cunial, poeta performer, e fra i fondatori fra l'altro del collettivo Fumofonico, che chi era ieri ha visto anche esibirsi. Stasera, a proposito di Poetry Slam, ci sarà in chiusura la finale regionale del campionato LIPS, Lega Italiana di Poetry Slam, di cui fra l'altro Nicolas era, vicepresidente. E niente, questi erano un paio di esempi perché ci piaceva anche fare vedere ciò di cui stiamo comunque accingendoci a parlare. Abbiamo anche il musicista e compositore Davide Tantulli, che ha composto alcune musiche, più tardi ne parliamo direttamente del libro. Per prenderla però larga e per passare parola, visto che sono 5 minuti che sto parlando, che cos'è la poesia orale? Cos'è la slam poetry? Intanto sono sinonimi queste due cose, e che cos'è la slam poetry? È un genere? È una corrente? Un'attitudine? Una tendenza? È definibile? Queste sono le domande che ci si pone continuamente in questo ambito. Anzitutto no, direi che non sono affatto sinonimi. Già definire slam poetry in realtà vorrebbe definire una poetica. La poetica dello slam sarebbe la traduzione, e questo sicuramente abbiamo notato che non esiste, già che il poetry slam fondamentalmente è un format, è una palestra, un luogo dove dei poeti si esibiscono, ma non hanno assolutamente, quasi mai, correlazioni dal punto di vista di quelli che possono essere le differenze in termini sia di argomento, di performance, di quelli che insomma possono poi essere le variabili che definiscono dei canoni. Quindi no, la poesia orale e il poetry slam sono due cose molto differenti. Io già difficilmente tendo a parlare di poesia orale, perché per me è un po' una tautologia, La poesia nasce orale e semplicemente adesso si è ritrovata a rivivere una nuova stagione molto florida da questo punto di vista, mentre è stata abitata nella carta solo per pochissimo tempo rispetto da quando è nata, perché se pensiamo agli antichi greci, ai trovatori provenzali, insomma c'è una tradizione molto lunga e molto vasta per quanto riguarda l'oralità come aggettivo determinante per la poesia. Mentre il poetry slam è qualcosa di molto più recente, e nasce negli anni 80 a Chicago, si tenne al Green Mill nell'86, se non sbaglio, da un'idea di Mark Ali Smith, e nell'86 questo Green Mill, questo locale dove una volta, un tempo prima, invece era Al Capone, che andava lì a pianificare i suoi eventi, i suoi attentati, i suoi piani malefici, quanto per mettere in mostra, diciamo, la correlazione poi talvolta tra poesia e devianze e criminalità. E si tenne questo Poetry Slam semplicemente perché a Mark Ali Smith gli venne chiesto di organizzare una serata e lui, oltre a voler fare il solito open mic e invitare i soliti performer, disse: va, utilizziamo un po' il sistema della box e l'applichiamo ai poeti. E nacque una gara. Nacque una gara così che poi molto velocemente si è diffusa, io credo anche perché negli anni 80 in America, e Davide credo lo sappia meglio di me, si diffondeva il rap, quindi erano delle forme, insomma, di riscoperta dell'oralità, della vocalità che erano pervasive. E era difficile che non colpisse di nuovo anche la poesia da questo punto di vista. Quando poi, appunto, col Poetry Slam si comincia a riscoprire mano a mano le potenzialità della voce, io credo che questo sia stato un po' un motore per tutto il fenomeno della poesia orale, ma che appunto sia soltanto un motore fra i tanti. Ci sono sicuramente molte altre ragioni, sia storiche che critiche, che potrebbero, insomma, supportare il perché della comparsa di questo fenomeno. In Italia invece poi il discorso prende una storia diversa perché viene importata nel 2001 dall'Allovoce, che doveva essere qui con noi, però appunto doveva scappare via, c'aveva cioè il treno alle 6:30. E arriva nel 2001 e viene subito supportato da tutta quella che era la neoavanguardia, Nanni Balestrini, Pagliarani, Antonio Porta, Edoardo Sanguinetti. Il primo slam si tenne a Roma davanti anche a queste emerite presenze che subito capirono le potenzialità di questo fenomeno, di questo format. E da lì si è sviluppato poi una sorta di famiglia con l'avvento nel 2013 della nascita della Lega Italiana Poetry Slam, moltissime delle persone che fino a quel momento organizzavano e utilizzavano il Poetry Slam appunto come palestra per migliorare, per presentare le proprie cose, per uscire anche magari dai propri limiti, anche scelti, anche appunto ricercati. E credo che questo sia stato un fenomeno molto positivo per la poesia fino ad oggi, perché oggi come oggi, se la poesia sta riscoprendo in qualche modo un pubblico di massa, è proprio perché si è cominciato a invertire quello che era il ruolo del libro come mezzo unico e prediletto, e invece a scegliere quello della voce, come era stato in principio, e quindi ritornare sostanzialmente a casa. E questo pubblico, adesso così di massa, riscopre che in realtà una necessità che principalmente prima era silenziosa, ma in realtà già albergava al proprio interno, all'interno di tutti noi, e sta dando i suoi frutti. Per citare semplicemente dei dati, nel 2013, quando la Lega Italiana Poetry Slam è nata, si organizzavano fino ad allora mediamente 10-15 slam in tutta Italia. Poi sono nati i primi tentativi di campionato razionalizzato all'interno dei confini nazionali e si è arrivati a un centinaio. Con la LIPS si è arrivati a 150, 200. Adesso siamo a 250-300 l'anno, praticamente uno al giorno. credo che sia, insomma, sotto gli occhi di tutti quanto questo sia un fenomeno che evidentemente ha preso forza, ne prenderà sempre di più, perché sta cominciando poi a uscire da questo luogo, perché quella che si è creata all'interno dello slam poi è diventata sostanzialmente una famiglia. Io ormai ho moltissime persone che frequento quotidianamente o comunque in maniera molto ripetuta nel tempo, che sono slammer o sono comunque organizzatori di poetry slam, e quindi si riconosce tutti e abbiamo capito tutti che c'è effettivamente qualcosa di più grande, che è la poesia orale e la commistione anche con la poesia e la musica, come Alberto Dubito è stato un esempio e di cui adesso a breve ne parleremo. E tutto ciò per dire che sostanzialmente il poetry slam ha avuto sicuramente un'azione molto importante per la riscoperta dell'oralità nella poesia. Sicuramente non è il... forse ne ho abusato di questo termine, sicuramente, mi pare a me. Non so, Davide, te che mi dici? Oh, ne ho abusato un po'. Vabbè, sono al limite, sono ancora salvabile. E sicuramente il poetry slam appunto ha avuto un grandissimo impatto sulla poesia orale, non sono sinonimi, però c'è una commistione molto forte e questo ne va dato atto, ecco, sì. Allora, un paio. Mi alzi un pochino. Una domanda. Mi dai il. Una domanda è suggestionata quando parlavi della funzione del Poetry Slam che aiuta a riscoprire il ruolo di massa della poesia che è andato perdendo. Faccio l'avvocato del diavolo, giocando a provocare, dicendo è come se però non avesse dignità di per sé, forse. Il fatto che si debba, come dicevi infine, commissionare con musica, con un palco, con una oralità spettacolarizzata, cioè la performance. Può essere che è figlia dell'assunto per cui la poesia di per sé cessa di avere un ruolo sociale o comunque di massa e di conseguenza ha da essere svecchiata trovando forme, per esempio, commistionanti come questa. E se è così, non è svilente la poesia anziché in realtà all'incontrario, come dicevi, per esempio, ricercare le origini e tirare un filo rosso? Ma no, io non credo che sia svilente, io credo che sia una riscoperta assolutamente necessaria di quello che è stata la tradizione in realtà. Già la commistione con la musica non è assolutamente qualcosa di nuovo, già Leopardi nello Zibaldone, insomma, parlava di quella che era stata la funesta separazione tra poesia e musica. E i trovatori provenzali componevano per essere cantate. La poesia e la musica sono due cose in realtà intimamente connesse, perché abitano entrambe la dimensione del tempo in realtà. La poesia ha il suo ritmo. L'avvento del verso libero è qualcosa di successivo, è qualcosa che voleva rompere con la tradizione, ma soltanto nello scopo di poi rispettarla a dovere, perché una tradizione tu la rispetti soltanto se poi in realtà ci vai contro, perché è quel modo che tu trovi una direzione diversa e che riesci poi però anche a rivalorizzare ciò che ti ha portato a quella scelta, quindi a riscoprirla. È un po' come la dialettica hegeliana, se vogliamo, no? È la tesi, l'antitesi, per giungere poi alla sintesi. Rispetto a questo tema, quindi no, non direi che è assolutamente svilente. Il punto è il fatto che sia poi diventato un fenomeno di massa, come magari, non so, cioè, adesso ci sono anche persone che potranno giustamente o ingiustamente storcere il volto, però fenomeni come Guido Catalano, che oggi come oggi riescono a vendere decine di migliaia di copie e che si sono creati e si sono costruiti grazie anche a palestre come il Poetry Slam, io non credo che svilisca, anche perché da quando facciamo le finali nazionali, normalmente una delle prime critiche che vengono mosse al Poetry Slam è c'è sempre poesia cabarettistica, vince quello che fa più ridere, nelle poesie a livello nazionale non è mai stato così. I primi 10, 12, talvolta delle nazionali, quindi i più forti in Italia che hanno superato barriere e barriere per arrivare a quel punto, quindi devono essere veramente molto piaciuti al pubblico, perché poi ovviamente girano anche tutta l'Italia. Questo ci dà da pensare che in realtà non è importante che faccia ridere, faccia piangere, ma che sia di qualitativamente buona. Il punto è questo: l'uomo medio, per quanto magari ci possa essere una certa, diciamo, aggressività nei confronti dell'uomo mediano, in realtà riesce a comprendere la bellezza. Io quando vado a un museo non conosco tutto per filo e per segno la storia che ha portato quell'artista a dipingere in quella maniera, ma quando guardo un quadro di Artemisia Gentileschi ne resto estasiato comunque. E la stessa cosa avviene con la poesia. Non hai la necessità di comprendere perfettamente tutte le regole che sono sottese a quel testo, però ti riesci comunque ad accorgertene della bellezza. E questo credo che sia un valore intrinseco della poesia che finalmente si è riscoperto con una dinamica molto più ravvicinata col pubblico. E questo il poeta Islano l'ha permesso. Hai parlato di tre cose diverse e vicine. Una, la quantità possibile di rilevanza e di vendita che consegue un certo agire. L'altra, l'origine della poesia, il richiamo musicale che c'è stato sempre, da sempre. La domanda all'incirca vuole essere, una, qual è grosso modo la geografia oggi italiana della slam poetry? E l'altra, al Festival di Letteratura Sociale ti chiedo, qual è allora la funzione sociale della poesia? Nel senso, hai alluso alla bellezza, hai dato qualche spunto, ma ha una funzione sociale? Voglio dire, quando prima parlavi del rapporto con le masse, la poesia che torna, è importante che sia così, oppure invece non importa in fin dei conti, perché va bene che svolga un ruolo alto d'élite, può essere che una risposta pure questa. Allora, io credo che per partire dall'ultimo dei punti che hai citato abbia un ruolo sociale piuttosto forte, per due punti di vista. Uno è quello dell'argomento che può essere trattato. Io, per esempio, da un po' di tempo, e purtroppo magari c'è gente che qua lo sa quanto me, porto in giro delle poesie che hanno a che vedere le malattie mentali. E lo faccio anche per cercare di sensibilizzare l'opinione che mi trovo di fronte rispetto a questo tema. E come me, tante altre persone, tanti altri slammer, tanti altri poeti cercano di portare un argomento sulla tavola delle persone. Il fatto che il rapporto con la tradizione sia essenziale nasce semplicemente dal fatto che è inevitabile. La poesia non è qualcosa che a un certo punto si spezza, è un ciclo continuo. E di conseguenza, come oggi c'è la riscoperta dell'oralità, domani ci sarà la scoperta di un nuovo mezzo che potrà essere preponderante rispetto alla capacità di comunicarla sul vasto piano del pubblico. E il punto che poi invece si possa raggiungere il pubblico grande, questo non significa che la poesia ne perda. Magari scolasticamente siamo tenuti a pensare che la poesia migliore è quella che è più difficile da capire. Non sta scritto da nessuna parte, ovviamente. Dipende sempre dalle intenzioni che ha l'autore, il poeta, e dipende sempre, ovviamente, da quello che ha la necessità di rompere. Perché la poesia comunque ha sempre e dovrebbe sempre avere un ruolo da, come definirlo, semplicemente dovrebbe rompere ciò che è stato costruito fino a quel punto per trovare una nuova via, un nuovo mezzo di espressione. Quindi il fatto che assuma una dimensione pubblica è determinante per svolgerla. Assolutamente. E il Poetry Slam è per questo che è nato così. Infatti è la giuria pubblica che fa il Poetry Slam, il Poetry Slam. Perché potrebbero essere invece che 3 minuti a testa, 5, potrebbe essere che invece che senza musica si può utilizzare la musica, potrebbe essere qualunque cosa, ma la giuria pubblica, e il pubblico è determinante. Se non c'è il pubblico, uno slam non si fa. E soprattutto è il pubblico che è tenuto in quel momento, visto che non sa, potrebbe essere tenuto lui ad essere la singola persona a giudicare il poeta sul palco, è tenuto a una responsabilità. Tu responsabilizzi un pubblico in questo modo. Quindi non stai soltanto creando cultura, gli stai cercando di dare un senso diverso alla cosa, un senso che è anche un po' più di lungo respiro, che riuscirà anche ad attecchire a fondo nella personalità delle persone. Tante persone che io ho incontrato nello slam, o comunque facendo questo lavoro di organizzazione e tutto il resto, sono rimaste poi estasiate da quello che hanno visto, hanno continuato a seguire gli eventi. Oggi come oggi conosco tantissime persone che ogni anno vengono a vedersi le finali nazionali soltanto per guardare effettivamente i migliori in Italia che ci sono quell'anno e quello che hanno da proporre. Credo che questo sia un fenomeno molto bello da studiare e si sta studiando fortunatamente, a parte libri di critica, ci sono anche un sacco di tesi laurea ormai che si stanno facendo sul Poetry Slam, perché rimette in circolo quella funzione tra poesia e pubblico che fino a un po' di tempo fa, quasi un decennio ormai, si era persa, relegando la poesia semplicemente sulla carta e alla propria lettura intimistica in casa, ecco. Allora ti faccio un'ultima domanda, prima poi magari Sì, di poi andare magari oltre, adesso infatti. Però collego anche con. anche se vuoi rispondere velocemente, come dicevo, poi sarà argomento per la prossima edizione, per i prossimi eventi. Ma la critica letteraria e poetica in particolare, cosa dice? Dice intanto della slam poetry e cosa dice? E ancora, è importante che dica, o forse in fin dei conti no? Beh, è importante che dica di sicuro, perché è a parlarne che si studia, si comprende il fenomeno. Dipende molto. Senti, ci sono stati degli esempi molto belli, per esempio sto pensando a Eugenia. Mi ricordi dov'era lo slam che abbiamo fatto, che c'era anche Gallerani, quello della lettura? No, Mantova, dov'era? Vicino a Modena, a Spilambergo. Abbiamo fatto questo slam a Spilambergo al Festival di Modena. Spilamberto, esatto, lo cannavano tutti quel nome. A Spilamberto abbiamo fatto questo slam che l'hanno definito la Champions League del Poetry Slam in Italia, perché c'erano moltissime delle personalità arrivate, insomma, tra i primi 10 in Italia. E c'erano alcuni critici, alcuni che scrivono sulla lettura, il Corriere della Sera, e che inizialmente erano ostici nei confronti del Poetry Slam, lo guardavano insomma in maniera un po' sospetta. Come hanno assistito, sono venuti da noi, ci hanno riempito di domande, si erano appassionati un sacco, avevano compreso che quello che normalmente si pensa è che ci sia della poesia facile, della poesia di bassa qualità. In realtà non è detto, non è necessario che sia così. Perché ci sono dei poeti veramente molto validi che credono che il Poetry Slam sia semplicemente una bella piazza dove esibirsi. Cosa che dovrebbe essere considerata tale. Invece, questi critici normalmente erano tesi più a pensarla al Poetry Slam una corrente letteraria. No, non c'è una corrente letteraria, non c'è nulla. Quello è semplicemente un luogo, è una costruzione fisica che si fa temporaneamente dove i poeti di vario genere si esibiscono. Poi c'è parte della critica che ancora invece appunto aggredisce il Poetry Slam, confondendolo con del cabarettismo, con delle esibizioni di bassa lega. Poi però si dimenticano che se un Poetry Slammer, uno slammer, magari pubblica un libro e vende in un anno 1500-2000 copie, che è esattamente quanto magari vendono loro con Einaudi, forse evidentemente qualche problema c'è da parte loro, però, perché noi finora gli slammer, a parte Catalano che ha pubblicato Guerrizzoli, nessuno è arrivato alla grande editoria. La Salvagnini che è arrivata con Bompiani. Però il punto della critica è che semplicemente è soltanto mantenendo questo fenomeno molto, molto vasto, molto attivo, che si renderà conto che principalmente ha sbagliato perché partiva da un pregiudizio, ma è sempre così. Tutto ciò che è nuovo e che rompe la tradizione è sempre visto in maniera guardinga all'inizio. È poi che ci si comincia ad abituare. Quando ci si abituerà al Poetry Slam, ecco che lì cominceranno probabilmente le devianze dello stesso fenomeno e ci sarà qualcosa di nuovo magari a cui assistere, ecco. Ci volete parlare di questo libro che abbiamo davanti? Che fra l'altro è un esito di ciò di cui stiamo parlando, è un esempio, no? Io introduco Davide in questo modo. Il primo Poetry Slam a cui ho partecipato c'era Alberto Dubito in platea. Doveva partecipare anche lui quella sera, però era affebbrato, c'aveva la febbre. Però era comunque, ecco, eravamo al Gran Festival a Silea, conduceva Lello Voce, quella volta vinse, se non sbaglio, Stefano Raspini. No, la solita la faccio. E Abe è stato per entrambi una persona importante nella nostra vita, ovviamente molto più per Davide, ma insomma ho visto nascere i Disturbati della Quiete e li accompagnavo inizialmente per i loro concerti. Alberto Dubito, per chi non lo conoscesse, è stato il cantante, il frontman dei Disturbati della Quiete che Davide e Alberto appunto insieme formavano. E dal 2006-7, 2006-2007, 2005. Dal 2005 appunto cominciarono la loro carriera all'interno del rap, però sempre con un occhio attento alla distruzione di quello che c'era in quel momento, sempre volendo costruire qualcosa di nuovo, demolire per costruire. E questa fu una cosa che mi piacque da subito. E culminò con un disco che io ritengo meraviglioso, ma meraviglioso, che si intitola La frustrazione del lunedì e altre storie delle periferie arrugginite, che potete ascoltare anche su Spotify. E Abe era una persona molto attiva a Treviso, e grazie a lui molte persone scoprirono il Poetry Slam. Lui era uno di quelli che ne vinceva parecchi, soprattutto a Treviso, che era molto ben voluto e molto ben conosciuto. E tutto il Poetry Slam, tutta la spoken music, tutta la poesia orale, effettivamente questo libro qui è un po' il culmine, perché questo è il primo libro, e speriamo tantissimi altri, della collana Canzoniere edita da Squilibri Editore, che ha come al suo interno come comitato editoriale Lello Voce, che ha portato appunto il Poetry Slam in Italia, Gabriele Frasca, il testo di cui, se c'era qualcuno ieri sera, avete sentito la performance in Fumo Fonico, era appunto suo, che è uno tra i poeti italiani viventi forse più grandi che abbiamo, e Claudio Calia, che è un grandissimo fumettista, veramente enorme. Credo che questo lavoro sia l'esempio del fatto che la poesia orale, il Poetry Slam, la spoken music, la poesia su musica stanno arrivando a qualcosa di concreto, qualcosa che vuole veramente parlare al grande pubblico e che abbia completamente tutte le qualità per farlo. E Davide penso che sia della stessa opinione, ma non lo so. Intanto buongiorno a tutti, io sarò breve perché non sono proprio in forzissime. Comunque sì, allora la mia storia con Alberto è iniziata molto presto, però nel senso non sono qui per parlarvi, oh, ma che cazzo, non sono qui per parlarvi insomma della sua vita, siamo qui per parlare di questo libro, che appunto è praticamente una raccolta del nostro, boh, una raccolta come se fosse un greatest hits della nostra musica, però è uscita in questa forma particolare, quindi sotto forma di libro. Poi c'è anche il disco alla fine e dei fumetti dentro, però è un libro. E quindi è una cosa particolare, però secondo me racchiude molto quello che è la nostra musica, nel senso c'è l'importanza delle parole per la nostra musica è diciamo forse la parte fondamentale, cioè la più importante nell'insieme del prodotto musicale. Quindi fondamentalmente abbiamo, nel senso, io sono stato molto onorato di essere stato chiamato da Lello per dare, diciamo, per fare insomma questo primo numero di questa collana proprio con Alberto e Disturbati. Poi niente, c'è questa cosa del Poetry Comics, che sono questi fumetti che arrivano insieme al libro e anche su tutti gli altri numeri è così. Questa è la particolarità insomma di questa collana. Che altro dire? Su Alberto, beh, ha detto molto sicuramente Nicolas, sarebbe molto più facile darvi un'idea concreta di chi era, perché purtroppo non c'è più, per quello continuiamo a parlare al passato, purtroppo è scomparso nel 2012, quindi all'età di 20 anni, e sarebbe bello farvi ascoltare qualcosa o farvi vedere qualcosa, però questo non è, insomma, non è il momento giusto adesso. Magari all'interno della giornata. Lo mandiamo in radio appena, esatto, finiamo questo tavolo. Magari, esatto, sì. Poi insomma, avrete modo di ascoltare qualcosa alla fine della presentazione. Però, volendo, qualcuno potrebbe interpretare una poesia per dare un'idea, forse. Allora, vabbè, se te la senti, però... Sappi che io ci tengo, è delicato, quindi vedi tu. Questo non me l'aspettavo, però bastardo. Aspetta, arrivo, vediamo cosa c'è. Cosa abbandonate. Se vuoi lasciare l'onere. Tanto approfitto per ricordare che il libro è disponibile al banchino, nella sala qua accanto, davanti al banco dell'Emerson, accanto alla piccola libreria. Allora, sì, adesso arrivo. La scelta è ardua. Abbastanza ardua. Allora, questo è un pezzo appunto dell'ultimo disco dei Disturbati dalla Quiete, si intitola La crisi dei giorni sì. Credo che sia uno dei pezzi per me più belli contenuti in quel disco, perché vabbè, è una bomba a prescindere, ma ha una costruzione a livello testuale veramente impeccabile. E fa così. Insomma, dai, fisso il soffitto se questo non ricambia, insonnia e guai, rivedi lei perso nel via vai, grattacieli nel subconscio, verticalizzi i pensieri e dici tutto a posto senza pensarlo mai. Cassa dritta, banche rotte, facce bianche, anche le tue anche parevano parentesi stanche. Dimmi che fretta c'era, maledetta prima pera, finire a temere l'amore ai tempi della galera. So che bruciano i tagli sulle braccia, ma abbracciami. Percorri col tuo tempo via dei facili ed escici, credici. Non dipendere né da cosa né da chi. E se c'è il Tamigi negli occhi, tu richiamami. Sul muro scrivo niente torna, nulla resta. La vita è una, ma non basta. Se vuoi, fottiamoci l'esistenza intera senza sosta, ma non questa, sul serio, non questa. Come i nostri gennaio e eterni lunedì, affronti gli eterni ritorni, la crisi dei giorni sì. Più scavi il fondo, più ti sembra normale andare sempre più a fondo, continuando a scavare. Più scavi il fondo, più ti sembra normale andare sempre più in fondo, sempre più in fondo. Aprile, se puoi, aprile gli occhi, svegliala. Il tempo brucia cranio e cuore, pare soda caustica, amore mio. Il nostro odio è un nodo scorsoio, rasoio sulla città cruda e ci farà perdere i sensi delle parole, diapositive della tua scheda nuda, tra derive delle sue fazioni abrasive, dove hai visto quanto rischi quando raschi il fondo dell'abisso. E adesso fammi un cenno, se mi senti, che col senno di poi i giorni sì, si fanno assenti, tradimenti e menti, amo promesse da marinaio. Se in gennaio è un eterno lunedì, se dici, diciamo smetto, ma non è mai così. Qua niente è più consistente dell'effimero. Scese l'ultima botta, il down strozza o fa cambiare rotta. Per questo ogni crisi è fondamentale. Lucifero batte il ferro finché scotta, fuga dal paradiso artificiale. appunto un sacco di sottotesto nei testi di Abe, infatti sono stati oggetto di più studi, di più tesi. E poi credo che questo in realtà, anche se appunto già con Agenzia X c'è stata una grandissima e meravigliosa raccolta dei testi di Abe che si intitola Eravamo giovani stranieri, che potete trovare anche nei banchetti oltre appunto al testo che qui vi stiamo presentando, credo che questo appunto sia sostanzialmente una sorta di fine e di inizio rispetto a tutto un percorso che negli anni si sta consolidando in Italia e di cui alcune persone qua presenti sono protagonisti e molte delle persone sono spettatori, chi più e chi meno attivo. Io vi invito assolutamente a ascoltare i pezzi dei Disturbati della Quiete di Alberto Dubito, perché indipendentemente dall'affetto che mi lega, dalla storia vissuta, hanno raggiunto dei livelli che oggi in Italia avremo veramente molto, molto bisogno e invece un po' ci mancano. Abbiamo tempo per un paio di domande. Se qualcuno vuole chiedere qualcosa, è questo il momento giusto. Se no, ne approfitto e ne faccio una io, però... Io volevo fare una domanda a Davide, se posso. Cosa significa approcciarsi ai versi e non ai versi cantati nel comporre musica? Allora, ma sta funzionando? Sì, boh, vabbè, insomma non importa, tanto ci sentiamo. No, è che non ho troppa forza, sennò urlerei e basta. Però, vabbè. Allora, io ti parlo... diciamo da semi-autodidatta quale sono, perché noi abbiamo iniziato a fare musica in terza media e vabbè, eravamo iscritti alla classe musicale delle scuole medie e lui faceva sassofono, io pianoforte, però nel senso non è che sapessimo veramente quello che stavamo facendo musicalmente, però Abe è sempre stato talmente preciso con la metrica e la scrittura, e tra l'altro è sempre stato, cioè è una persona che è riuscita a smuovere praticamente tutto di tutte le persone che gli stavano intorno, quindi io che non avevo assolutamente idea che si potessero fare dei beat, io arrivavo dal rock, dal metal, non sapevo che, cioè appunto il mondo hip hop, era un po' lontano, e mi ha spinto lui a fare basi, però come ha spinto lui a fare grafica, a un certo punto ha spinto tutti a fare un sacco di cose, quelli che li circondavano e quello che lo circondavano, e quindi alla fine da subito, diciamo, io ho imparato a fare musica seguendo quello che diceva lui, quindi infatti alcuni pezzi sono anche in tempi dispari, perché decidevamo di fare, lui decideva di cambiare la metrica e diceva vabbè cazzo, però allora aspetta che aggiungiamo un quartino di qua, insomma alla fine della fiera è in quello che stava secondo me molta della nostra particolarità, a parte il background molto diverso stilistico che ci contraddistingueva, perché io appunto venivo da suoni molto più musica molto più suonata, lui invece aveva quasi sempre ascoltato musica su campione, quindi fondevamo un po' talmente tutto, e soprattutto la musica è sempre stata, diciamo, una cosa molto incollata alla voce, e questo praticamente secondo me alla fine genera una qualcosa di che non puoi inquadrare in un vero e proprio genere, o comunque non è una cosa che puoi studiare a scuola. Quindi il mio approccio con la musica è sempre stato questo, tuttora quando produco non faccio mai un beat sterile che inizia e finisce in un modo senza averne prima discusso con chi ci mette la voce, perché insomma se vogliamo fare il beat loop con la strofetta e fare un brano che si confonde con altri miliardi di brani, allora stiamo parlando di una cosa. Se invece dobbiamo fare della musica che abbia un minimo di identità, tanto vale lavorarci un po' più intensamente. grazie a te per il supporto, cazzo, sei la migliore amica oggi. niente, quindi io ho imparato con lui a fare, anche a spezzare il beat in vari mood, vari tempi, vari però non per forza è un metodo unico o sul quale, si possa, cioè è una mia interpretazione di come si fanno le cose, poi se va bene va bene, se non va bene sti grandissimi cazzi. Spero di essere stato esaustivo poi. Qualcuno vuole chiedere qualcosa o volete fare voi un'ultima battuta? Rischiamo di andare un po' lunghi, ma ancora due parole. Ah sì, scusate se non sono proprio un grandissimo oratore, ma io sono musicista, cioè sto di un po' dentro uno studietto sottoterra e non parlo di solito tanto. Ricordo allora che stasera alle 21.30 in questa sala ci sarà la finale regionale del campionato di LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, di cui prima abbiamo parlato. Quale migliore occasione di vedere un esito effettivo. In questa giornata dedicata alla poesia, in questa seconda parte della giornata dedicata alla poesia, fra qualche minuto affronteremo la poesia di strada. Più tardi nella radio ci sarà la presentazione del libro Labirinti di Hassan, quindi rimanete qui, buon ascolto a chi ci ascolta e buona prosecuzione a chi è qui. Grazie a Nicolas, grazie a Davide, grazie a tutti. No, grazie, io ci tenevo a ringraziare tantissimo Nico per aver detto tutto quello che c'era da dire di complicato e mi ha salvato tantissimo. Grazie a Marco e tutto lo staff, insomma, della polveriera, che è un posto fighissimo, non c'ero mai stato e spero di tornarci perché... O comunque, intanto oggi pianto le tende, sto qua fino alla fine, quindi me lo vivo un po' bene. Però grazie mille per tutto davvero e bella, spero sia stato esaustivo. a me ha preso un mal di schiena strano, non so perché. Vado un attimo in bagno, perché saluto a guardare il video. Vagliela su quel murale. Sì, vieni. Vai. Ma tu sei bella per Dio. Via il... Dai, ve la faccio io. No, aspetta. Okay. io adesso vi deformo in una maniera eccezionale, farete cagare. Ma abbiamo un accendino? Sì. Vai, ce l'ho. Se ti senti? È mio. Certo. Ma io non mi andrò a prendere un vino. Io poi sono... Io mi ho un letto nella tasca. Cos'è l'eure? Che si muove? Nella tasca sinistra. Ah, adesso. Sentito osservato, detto il contrario.